Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Per tutta la notte nevicò, neve asciutta e ruvida come sale. Nella via dove abitava Herman si riusciva a malapena a distinguere i contorni delle poche automobili sepolte sotto la nevicata. Herman immaginò che i cocchi di Pompei, coperti di cenere dopo l'eruzione del Vesuvio, dovessero aver avuto lo stesso aspetto. Il cielo notturno divenne violetto, come se, per qualche miracolo, o per una trasformazione del firmamento, la terra fosse entrata in una costellazione sconosciuta. Egli pensò alla sua fanciullezza, a Nucà, lo scioglimento del grasso di pollo per la Pasqua imminente, i giochi con la trottola, le corse con i pattini sui rigagnoli ghiacciati, le letture settimanali di quella parte della Torah che comincia con le parole «E Giacobbe dimorò nella terra dei suoi padri». Il passato esisteva, Herman parlava con se stesso, ammesso che il tempo altro non fosse se non un modo di pensare, come sosteneva Spinoza, o una forma della percezione, come riteneva Kant, non si poteva ugualmente negare il fatto che a Cicca, durante l'inverno, nella stufa, ardeva legna. Suo padre, benedetta ne fosse la memoria, studiava la Gemara e i commenti, mentre sua madre cucinava una polenta di farina d'orzo con fagioli, patate e funghi secchi. Egli sentiva ancora il sapore delle frittelle di farina d'avena, sentiva suo padre farfugliare mentre leggeva e il tintinnio di un campanello della slitta carica di tronchi che un contadino stava portando fino a lì dalla foresta. Herman, in vestaglia e pantofole, sedeva nell'appartamento. Sebbene fosse inverno, la finestra rimaneva appena socchiusa e lasciava entrare un suono simile a quello di innumerevoli grilli che stessero cantando sotto la neve. In casa faceva troppo caldo. Il portiere aveva lasciato funzionare il riscaldamento per tutta la notte. Il vapore dei radiatori sibilava il suo motivetto di una sola nota, colmo di un indistinguibile desiderio. Ma immaginava che il suono del vapore delle tubazioni fosse un lamento. Male, male, male, male, soffro, soffro, soffro, soffro, malato, malato, malato, malato. La luce non era accesa, ma la luminosità, diffusa nel cielo e riflessa dalla neve, riempiva la stanza. Si trattava di una luce, immaginò Herman, simile a quelle aurore boreali di cui aveva letto nei libri. Per qualche tempo fissò lo scaffale e i volumi della Gemara, che di nuovo erano negletti e polverosi. Jadwiga non osava mai toccare quei libri sacri. Herman non riusciva a dormire. Era stato unito in matrimonio con Masha da un rabbino e, stando ai suoi calcoli, lei si trovava al sesto mese di gravidanza, sebbene non si vedesse affatto. Inoltre, anche Jadwiga non aveva avuto il mestruo. Pensò al detto Yiddish, secondo il quale 10 nemici non possono danneggiare un uomo tanto quanto egli può danneggiare se stesso. Eppure, sapeva di non essere il solo responsabile di tutto questo. Esisteva sempre il suo nemico nascosto, il demonio suo avversario. Invece di distruggerlo rapidamente, quel diavolo continuava a inventare per lui nuove e sconcertanti torture. Respirò l'aria gelida che veniva dall'oceano e dalla nevicata. Guardò fuori e prese il desiderio di recitare una preghiera. Ma per chi? Come avrebbe potuto trovare il coraggio di rivolgersi ai poteri celesti adesso? E per che cosa avrebbe potuto pregare? Dopo qualche tempo tornò a letto e si distese accanto a Jadwiga. Era la loro ultima notte insieme. Al mattino partiva per uno dei suoi viaggi e questo significava che sarebbe andato a stare da Masha. Dopo le loro nozze, quando le aveva infilato l'anello sul dito indice, Masha si era data da fare migliorando l'appartamento e rimettendo a nuovo la sua stanza. Di notte non doveva più raggiungerlo di nascosto per non turbare sua madre. Aveva promesso di non litigare con lui a causa di Jadwiga, ma non era riuscita a mantenere la parola. Imprecava contro Jadwiga ad ogni occasione e arrivava al punto di esclamare che le sarebbe piaciuto ucciderla. La speranza di Masha che il matrimonio potesse tacitare i rimproveri di sua madre si era dimostrata illusoria. Chifrapois si lagnava dicendo che il concetto di Herman del matrimonio era una burla. gli vietava di chiamarla suocera. Tra loro venivano pronunciate soltanto le parole più indispensabili. Chifrapoix era più che mai assorta nelle preghiere, sfogliava libri, leggeva i quotidiani yiddish e le memorie delle vittime di Hitler, passava gran parte del tempo al buio nella camera da letto ed era difficile capire se stesse pensando o schiacciando un pisolino. La gravidanza di Jadwiga costituiva una nuova catastrofe. Il rabbino della sinagoga, nella quale Jadwiga si era recata per Yom Kippur, aveva accettato i suoi $5, una donna l'aveva accompagnata al bagno rituale e lei si era ormai convertita al giudaismo. Osservava le leggi della purificazione e del kashrut, faceva continuamente domande a Herman, era consentito tenere la carne in frigorifero quando vi si trovava già una bottiglia di latte, era possibile mangiare latticini dopo la frutta, poteva scrivere a sua madre, che stando alla legge ebraica non era più sua madre? Le vicine la confondevano con i loro consigli contraddittori, il più delle volte basati su superstizioni. Un anziano ebreo, un venditore ambulante, immigrato, cercava di insegnarle l'alfabeto ebraico. Jadwiga non sentiva più la radio sui programmi della stazione polacca, ma ascoltava soltanto quelli in Yiddish. Si sentiva sempre piangere e sospirare da quelle stazioni. Persino le canzoni avevano un che di singhiozzante. Lei pregava Herman di parlare lo Yiddish, sebbene capisse molto poco, e lo rimproverava sempre più di frequente perché non si comportava come gli altri ebrei. Non andava alla sinagoga, non possedeva uno scialle di preghiere e nemmeno i filatteri. Lui la invitava a badare agli affari suoi, oppure le diceva «Non dovrai giacere sul mio letto di chiodi nella Gehenna», oppure ancora «Fammi un favore, lascia in pace gli ebrei, abbiamo già abbastanza guai senza di te». «Posso portare il medaglione che mi ha dato Marianna? C'è sul crocefisso». Puoi, smettila di seccarmi. Jadwiga non teneva più a distanza le vicine. Le facevano visita, le confidavano segreti, pettegolavano con lei. Queste donne, che avevano ben poco altro da fare, le insegnavano come si fanno acquisti a buon mercato, la mettevano in guardia, consigliandola di non lasciarsi sfruttare dal marito. Una famiglia americana doveva avere un aspirapolvere, un frullino elettrico, un ferro da stiro elettrico e, se possibile, una lavapiatti. L'appartamento doveva essere assicurato contro gli incendi e i furti. Herman doveva assicurarsi sulla vita. Lei doveva vestire meglio e non andare in giro con stracci da contadina. Era in corso tra le vicine una controversia per stabilire quale Yiddish si dovesse insegnare a Jadwiga. Le donne provenienti dalla Polonia cercavano di insegnarle lo Yiddish polacco e le lituane quello lituano. Continuamente le facevano rilevare che suo marito passava troppo tempo in viaggio e che, se lei non fosse stata attenta, sarebbe potuto fuggire con un'altra donna. Nella mente di Jadwiga, la polizza d'assicurazione e la lavapiatti divenivano aspetti necessari dei precetti ebraici. Herman si addormentò, si destò, si appisolò di nuovo e di nuovo tornò a destarsi. I suoi sogni erano complicati come la vita da sveglio. Aveva discusso con Jadwiga la possibilità di un aborto, ma lei non voleva ascoltarlo. Non le spettava il diritto di avere almeno un figlio? E lui, per giunta, perché sarebbe dovuto restare qualcosa di simile a un albero secco? Lei sarebbe stata una buona moglie, era disposta ad andare a lavorare fino al 9° mese di gravidanza, a lavare i panni per le vicine, a sfregare i pavimenti, a contribuire alle spese. Un vicino, il cui figlio aveva appena aperto un supermarket, offriva a Herman un posto, evitandogli così di dover viaggiare in tutto il paese per vendere libri. Herman avrebbe dovuto telefonare a Tamara nella camera ammobiliata dove era andata a vivere, ma giorni e giorni erano passati e non aveva telefonato. Si trovava, come sempre, in arretrato con il lavoro per il rabbino. Ogni giorno temeva di ricevere una lettera dal fisco con la quale gli sarebbero state applicate gravi penalità per il mancato pagamento delle tasse. Una qualsiasi indagine avrebbe potuto portare alla scoperta di tutte le sue prestazioni. Non avrebbe dovuto continuare ad abitare in quell'appartamento ora che Leon Torschiner aveva il suo numero di telefono. Torschiner sarebbe stato capacissimo di fargli una visita senza preannunciargliela. Herman riteneva possibile che quell'uomo stesse tramando per causare la sua rovina. Mise la mano sul fianco di Jadwiga, il corpo di lei emanava un calore animale. Il suo sembrava gelido in confronto. Jadwiga parve intuire nel sonno che Hermann la desiderava e reagì farfugliando, senza destarsi del tutto. «Il sonno non esiste», pensò lui. «È soltanto una simulazione e una finta». Si appisolò di nuovo e quando riaprì gli occhi era giorno pieno. La neve splendeva abbacinante nel sole. Jadwiga si trovava in cucina. L'aroma del caffè giungeva fino a lui. Wojtusz fischiava, trillava, senza dubbio stava facendo la serenata a Marianna, che cantava di rado e, per tutto il giorno, non faceva altro che rassettarsi le penne e strapparsi le soffici piume sotto le ali. Per la centesima volta Hermann calcolò le proprie spese. Doveva pagare la pigione lì e nel Bronx. E inoltre le bollette telefoniche degli appartamenti intestati, uno a Jadwiga e l'altro a Chiffrapoix. Non aveva pagato le bollette del gas e dell'energia elettrica di nessuno dei due appartamenti e avrebbero potuto tagliare l'uno e l'altra. Non trovava più le bollette. Le sue carte e i suoi documenti avevano l'abitudine di sparire. Magari era riuscito a perdere anche del denaro. Beh, ormai è troppo tardi per rimediare in qualunque modo, pensò. Dopo qualche momento andò in bagno a radersi. Guardò nello specchio la propria faccia coperta di schiuma. Il sapone sulle gote sembrava una barba bianca. Si vedevano spuntare un naso pallido e due occhi chiari, stanchi, eppure giovanilmente ardenti. Il telefono squillò. Andò all'apparecchio, sollevò il ricevitore e udì la voce di una donna anziana. Balbettava, parlava a stento. Lui stava per riattaccare quando ella disse: «Sono Chiffrapoix!» Chiffrapoix, che cosa è successo? Suicidio. L'idea balenò nella mente di Hermann. Dimmi che cosa è accaduto. Vieni subito, per piacere. Che cosa è stato? Vieni subito, ripeté Chiffrapoix e riattaccò. Hermann fu preso dall'impulso di richiamarla per avere maggiori particolari, ma sapeva quanto fosse difficile per Chiffrapoix parlare al telefono e inoltre non ci sentiva bene. Tornò in bagno. La schiuma sulle guance si era disseccata e si staccava a squame. Qualunque cosa potesse essere accaduta, doveva radersi e fare la doccia. Finché vivi, non devi puzzare. Cominciò a applicarsi altra schiuma sulla faccia. Jadwiga entrò nel bagno. Di solito apriva la porta ad agio e chiedeva il permesso di entrare, ma questa volta entrò senza complimenti. Chi ha telefonato un momento fa? La tua amante? Lasciami in pace. Il caffè si sta raffreddando. Non posso far colazione, devo uscire subito. Dove vai? Dalla tua amante? Sì, dalla mia amante. Mi hai ingravidata e corri dietro alle puttane. Tu non vendi libri, bugiardo! Hermann era sbalordito. Jadwiga non gli aveva mai parlato in un tono così velenoso. L'ira si impadronì di lui. Torna in cucina o ti scaravento fuori di qui, urlò. Hai un amante, passi le notti con lei, cane! Jadwiga lo minacciò con il pugno ed Hermann la picchiò fuori dalla porta, la impiccare contro di lui nel suo linguaggio da contadina. Si affrettò a mettersi sotto la doccia, ma uscì soltanto acqua fredda. Si vestì goffamente il più rapidamente possibile. Jadwiga era uscita dall'appartamento, probabilmente per dire alle vicine che lui l'aveva picchiata. Hermann beve un sorso di caffè dalla tazza che si trovava sul tavolo di cucina e si precipitò fuori. Dopo un attimo rientrò. Aveva dimenticato il maglione e le soprascarpe di gomma. Fuori la neve lo accecò. Qualcuno aveva scavato un passaggio tra due pareti di neve, percorse la Mermaid Avenue, dove i negozianti stavano spalando via la neve, formando dei mucchi. Lo investivano folate di vento gelido, dalle quali tutti i suoi indumenti non riuscivano a proteggerlo. Non aveva dormito abbastanza e, a stomaco vuoto, era in preda a un lieve capogiro. Salì le scale della stazione aperta per aspettare un treno. Coney Island, con il suo Luna Park e la corsa a ostacoli, si stendeva desolata sotto la neve e il gelo invernali. Il treno si fermò lungo il marciapiedi e lui saltò su. Fuggevolmente riuscì a intravedere l'oceano dal finestrino. Le onde si gonfiavano, spumeggiavano con furia invernale. Un uomo camminava adagio lungo la spiaggia, ma era impossibile immaginare che cosa stesse facendo là, al freddo, a meno che non volesse affogarsi. Herman scelse un posto sopra le tubazioni calde del riscaldamento. Sentì la corrente d'aria tiepida che passava attraverso le assicelle del sedile. Il vagone era quasi vuoto. Un ubriaco si era disteso sul pavimento, indossava un abito estivo e non aveva il cappello. Di tanto in tanto si lasciava sfuggire un grugnito. Herman raccattò dal pavimento un giornale infangato e lesse la notizia di un pazzo che aveva assassinato la moglie e 6 figli. Il treno procedeva più lentamente del solito. Qualcuno disse che i binari erano coperti di neve. Accelerò quando la linea divenne sotterranea e infine si fermò in Times Square, dove salì sul rapido per il Bronx. Occorsero per il tragitto quasi 2 ore, durante le quali Herman lesse da cima a fondo il giornale imbrattato di fango, la cronaca, gli annunci, persino la pagina dedicata alle corse dei cavalli e gli annunci funebri. Quando Herman entrò nell'appartamento di Masha, vide Chiffrapois, un giovanotto tarchiato, che era il medico, e una donna dalla carnagione bruna, probabilmente una vicina, al quale era troppo grossa per il suo corpo minuto. «Credevo che non saresti mai venuto», disse Chiffrapois. «È lungo il tragitto con la sotterranea». Chiffrapois aveva sul capo un fazzoletto nero, la sua faccia sembrava giallognola e più rugosa del solito. «Dov'è?» domandò Herman. Non sapeva se si stesse informando su una persona viva o su un cadavere. «Dorme, non entrare». Il dottore, un uomo dalla faccia tonda, con gli occhi umidi e i capelli ricci, accennò a Herman e in tono beffardo domandò «È il marito?» «Sì», rispose Chiffrapois. «Signor Broder, sua moglie non era incinta. Chi le ha detto che lo fosse?» «Lei». «Ha avuto un'emorragia, ma il bambino non esisteva. Si era fatta visitare da un medico?» «Non lo so. Non so nemmeno con certezza se fosse andata da un medico». «Ma dove credete di vivere voi altri? Sulla luna? È come se continuaste a trovarvi nel vostro piccolo shtetl in Polonia». Il dottore parlava un po' in inglese, un po' in yiddish. «In questo paese, quando una donna è incinta, viene affidata al controllo continuo di un medico. Tutta la gravidanza di sua moglie era qui», disse il dottore, puntandosi il dito indice sulla tempia. Chiffrapois era già al corrente della diagnosi, ma giunse le mani come se ne venisse informata per la prima volta. «Non capisco, non capisco. Il ventre le cresceva, il bambino sferrava calci. Tutti nervi!» «Mamma mia, che nervi! Signore Dio, difendici e proteggici da nervi simili, Padre in cielo!» «Si era messa a strillare, cominciava ad avere le doglia, misera me!» gemette Chiffrapois. «Signora Bloch, una volta ho sentito parlare di un caso del genere», disse la vicina. «A noi profughi capita di tutto. Abbiamo sofferto tanto con Hitler che siamo diventati pazzi. La donna della quale mi hanno parlato aveva un ventre enorme. Tutti dicevano che avrebbe dato alla luce 2 gemelli, ma all'ospedale scoprirono che era soltanto gas». «Gas?» domandò Chiffrapois, portandosi la mano all'orecchio, come se fosse stata sorda. «Ma vi dico che mia figlia non ha mai avuto il maestro in questi mesi. Beh, allora gli spiriti maligni si stanno divertendo con noi. Eravamo usciti dalla Ghenna, ma la Ghenna ci ha seguito fino in America. Hitler ci è corso dietro». «Ora vado», disse il medico. «Dormirà fino a questa sera tardi, forse anche fino a domani mattina. Quando si sveglierà, le dia la medicina. Potrà darle anche qualcosa da mangiare, ma non il cholent». «E chi lo mangia il cholent a metà settimana?» domandò Chiffrapois. «Noi non lo mangiamo nemmeno il sabato, il cholent riscaldato nel forno a gas non ha alcun sapore». «Stavo scherzando, signora». «Tornerà, dottore?» «Passerò domani mattina, andando all'ospedale. Lei sarà nonna tra un anno. Gli organi interni di sua figlia sono normalissimi». «Non vivrò così a lungo», disse Chiffrapois. «Bene, era tutto quassù». Di nuovo il dottore si additò la fronte. Uscì. Ma si soffermò sulla soglia per far cenno alla vicina, che lo seguì. Chiffrapois tacque e rimase sospettosamente in attesa, tenendo che andava un'orto per sorgere la porta. Poi disse: «Ci temevo tanto avere un nipotino. almeno una creaturina alla quale dare il nome degli ebrei assassinati, speravo che fosse un maschio, lo avremmo chiamato Meyer. Ma a noi non ci va mai bene niente, perché la sfortuna ci perseguita. Ah, non mi sarei mai dovuta salvare da quei nazisti, sarei dovuta restare là con gli ebrei morenti, invece di fuggire in America. Ma volevamo vivere. A che cosa mi serve, però, la vita? Io invidio i morti. L'invidio dalla mattina alla sera. Non posso nemmeno meritarmi la morte. Speravo che le mie ossa potessero essere seppellite in Terra Santa, ma il destino vuole che debba giacere in un cimitero americano. Herman non rispose. Chiffrepoix si avvicinò alla tavola e prese il libro di preghiere. Poi lo rimise giù. Ti andrebbe qualcosa da mangiare? No, grazie. Perché ci hai messo tanto tempo? Bene, credo che ora reciterò le preghiere. Inforcò gli occhiali, si lasciò cadere su una sedia e prese a farfugliare con le labbra esangui. Herman aprì con cautela la porta della camera da letto. Masha dormiva nel letto dove riposava di solito Chiffrepoix. Era pallida e serena. La contemplò a lungo. Si sentì sopraffatto dall'amore per lei, oltre che dalla vergogna di se stesso. Che cosa posso fare? Come posso ripagarla di tutte le sofferenze che le ho causato? Richiuse la porta e andò in camera sua. Attraverso il vetro della finestra, appannato in parte dal gelo, vide nel cortile l'albero che non molto tempo prima era rivestito di foglie verdi. Adesso lo coprivano neve e ghiaccioli. Sui rottami metallici e sulle grate di ferro disseminato qua e là giaceva uno spesso rivestimento bianco-bluastro. La neve aveva trasformato i rifiuti umani in un cimitero. Herman si distese sul letto e si addormentò. Quando aprì gli occhi, era sera e Chiffrepoix si trovava in piedi accanto a lui e stava cercando di svegliarlo. «Herman, Herman, Masha è sveglia, va da lei!» Gli occorse un momento per capire dove si trovava e per ricordare quello che era accaduto. Nella camera da letto una sola lampada rimaneva accesa. Masha giaceva nella stessa posizione di prima, ma aveva gli occhi aperti. Guardò Herman e non disse nulla. «Come ti senti?» le domandò. «Non mi rimane più alcuna capacità di sentire.»